Black MCs watch this nigga's frustration. No easy way to win. And a nigga rotate, turn on your table. What's happening? Original B-boy, I'm rapping. Il mio nome è Cioccolato doppia C, Yoshi S-H-I, staccami da qui, fottiti o dimmi sì. Qui si fanno brindisi, strada passi piccoli, son rime su rime su rime, birra e porri a spiccioli. C'ho l'intenzione, bloccami, sento sotto i sintomi, rapami, li sento mi, dogna notti e dogna di, figlio di gente normale, meridionale, cresciuta al mare o giocando a pallone in piazzale, a colpi di maestrale, ero tale quale uguale a qualsiasi liceale, il sabato prima in viale, poi birre di e boccale, di birra cereale, la domenica mattina al sole leggendo il giornale, sono socievole e cordiale, ma mi piace lo scontro verbale, la mia opinione personale, c'è che io rappresento il mio, sono restio, sento un ronzio, oh zio, seguimi perché mi avvio, questo è il trio, grazie a Dio, aiuto tre ominesi in gamba, custe zicchini, casallocanda, una banda sarda di gente bianca, manca il colore ma la musica non cambia, contentezza e rabbia, se la giornata è piatta, la rappa riscatta, ti stacca da una realtà di cacca, così funziona, però lo stesso è roba buona, chi mi conosce ci ragiona e chi mi ignora mi sprona, perché se l'intenzione è scarsa, il successo paga male, se la farsa viene a galla rischi anche di affondare, BDB boy originale, Zulu l'esperienza insegna, Cioccolato bianco, Psycho City, Sardegna, perché se l'intenzione è scarsa, il successo paga male, se la farsa viene a galla rischi anche di affondare, BDB boy originale, Zulu l'esperienza insegna, Cioccolato bianco, Psycho City, Sardegna. 5 anni di esperienza, di pazienza, senza neanche un'assenza, coltivando con intelligenza la mia conoscenza, la partenza era in pendenza verso l'alto, rappa in italiano, in sardo, troppo caldo, sguardo fisso sul traguardo, su bastardo, no duvazzo, qua rispetto, scola gampi danese su Vuedu, aio, io sapevo con sollievo di essere un ottimo allievo, ci credevo, ora anche se devo, non chiedo, bevo, sono nebo, non mi congedo, ti congelo, sulle mani in cielo, sai che il lupo perde il pelo, ma non perde il vizio, cambia il dialetto, ma non cambia l'utilizzo, ah, come all'inizio, mi sintonizzo, perché tengo la mia mente in esercizio, frutti d'oro l'indirizzo, mi indirizzo verso posti nuovi, se non provi, non ti muovi, da dove ti trovi, non mi commuovi, non si piange sul latte versato, non si sgarra in vicinato, c'è Yoshi Cioccolato, inviato, infogato, duro come un carro armato, dato che la speranza è verde come il prato, sono nato, scimmiato, spero per davvero che ci sia un significato, spero che finisca prima o poi questa vergogna, bisogna fare rime con più voglia, perché chi imbroglia è una carogna, perché se l'intenzione è scarsa, il successo paga male, se la farsa viene a galla rischi anche di affondare, BDB boy originale, Zulu l'esperienza insegna, Cioccolato bianco, Psycho City, Sardegna, perché se l'intenzione è scarsa, il successo paga male, se la farsa viene a galla rischi anche di affondare, BDB boy originale, Zulu l'esperienza insegna, Cioccolato bianco, Psycho City, Sardegna, Sardegna, Sardegna, Sardegna, Sardegna. Original B-boy, I'm rapping.